Appuntamento dal pomeriggio invece per la May Day, a questo punto tradizionale, mi viene da dire, appuntamento per Milano e non soltanto, con un'incertezza ancora, almeno vediamo di chiarirla se ci si riesce invece a cominciare dalle cose base, cioè non il ritrovo ma l'arrivo, nel senso il percorso di questo corteo della May Day. Benvenuto Fabrizio della rete di San Pecario. Ciao a tutti. Ancora non si sa bene il percorso, o quantomeno siete in grado di dire a tutti su che percorso vi possono trovare, per chi vuole venire? Sì, noi crediamo che il percorso sarà alla fine quello classico, quindi con partenza da Piazza 24 Maggio alle ore 15 e con arrivo possiamo dire in Piazza Castello. Faremo all'arrivo una grande consultazione precaria, una grande assemblea precaria in cui domanderemo a tutti, faremo una domanda molto semplice ma difficile allo stesso tempo, cioè: tu come resisti alla crisi? Tu come resisti in questo momento di estrema difficoltà e alla precarietà dilagante? In maniera tale che tutte i precari e le precarie organizzati e non che parteciperanno alla May Day potranno dire la loro. Ma materialmente, scusami, sarà una cosa parlata o quasi per lasciare scritte le proprie storie? No, assolutamente parlata, ci sarà un microfono itinerante e intervalleremo gli interventi delle persone che ci saranno a Milano con interventi dalle piazze globali, perché domani il 1° maggio sarà 1° maggio in diverse città nel mondo, da New York, dove il movimento Occupy Wall Street ha lanciato lo sciopero generale, a Lisbona, a Toronto, in Germania, in preparazione alle giornate di mobilitazione di Francoforte contro la Banca Centrale Europea. Quindi, come dire, l'afflato sarà globale domani. Beh, questo è alquanto interessante esserci, sia per sentire le storie, sia per vedere questo 1° maggio, 1° maggio generale. Perché c'è stata questa questione ancora sul tragitto, eccetera, che sul punto d'arrivo che volevano dare davanti alla triennale da parte del comune? Ma crediamo che sia dovuta anche all'esigenza della questura di limitare un po' anche questo 1° maggio, che da 12 anni è comunque il 1° maggio precario, la più grande manifestazione auto-organizzata totalmente dal basso. Quindi rispetto a questi problemi qui la questura ha fatto delle rimostranze rispetto all'arrivo, ma credo che possiamo dire tranquillamente che la May Day sarà quella del solito, quindi il percorso sarà quello classico, visto comunque anche il percorso di rigenerazione e rinnovamento della May Day che è iniziato l'anno scorso, dove, come dire, la dimensione più politica, sociale, visto anche i tempi duri, i tempi di crisi che ci sono, ha imposto. Quindi la dimensione di festa e di rave sarà sicuramente assente domani. Insomma, meno musica e più parola in qualche modo. Assolutamente sì, anche perché il tentativo, poi, come dire, il passaggio in questi 12 anni è stato quello di, come dire, di un passaggio dalle azioni simboliche, come dire, che facevano uscire i precari dall'invisibilità, un tentativo di connessione reale delle lotte, perché crediamo che se le lotte rimangono, come dire, singole e assolutamente separate l'una dall'altra, non si possa andare lontano. Quindi la May Day, proprio una delle sue finalità è quella di rompere l'isolamento, che per noi è l'altra faccia della precarietà, no? Precarietà fa rima con isolamento, quindi durante la May Day tutti i precari, tutte le precarie si sentono anche meno soli e, come dire, possono condividere la propria condizione e cercare di condividere anche delle soluzioni alla propria condizione di precarietà, perché altrimenti siamo condannati a semplicemente a narrare la propria condizione di sfiga, e noi vogliamo essere invece protagonisti delle nostre vite. Appuntamento dalle 15 in Piazza 24 Maggio domani. Esatto, appuntamento alle 15 da Piazza 24 Maggio. Tutte le informazioni anche sui contenuti più politici delle May Day, che non possiamo dire adesso ovviamente per esigenze di tempo, su www.precaria.org. www.precaria.org. Esatto. Grazie Fabrizio. Grazie, buon 1° maggio a tutti. Grazie a te, domani alla rete di San Precario con l'appuntamento che vi abbiamo dato per la May Day.